Mancano 0 giorni alla fine del mondo. Chiedo asilo. Boh, a me sembra tutto normale. Sì, però. Sì, l'asilo c'è, tu ci sei. Anche tu, purtroppo. E quindi? Quindi cosa? Non è successo niente. Vabbè, non sarà successo niente, però adesso succede che comunque... Io ho la sgradevole sensazione, capa, che tutto sia rimasto né più né meno come prima. No, io ho la gradevole sensazione che tutto sia rimasto né più né meno come prima. Quindi sgradevole io, gradevole tu. Vedi? L'avranno capito? Boh, sì. È questione di punti di vista. Ma vabbè, comunque il fatto è che io non ci ho mai creduto a sta roba dei mani. Ma nemmeno io, capa, ma per chi mi prendi? Sì, però ieri... E ieri cosa? Ti sei un po' cagato sotto. Ma va, dai, figurati. Comunque è emblematico che il mondo alla fine, finito, rinasce il venerdì, no? Sì, vabbè. Pensa che sfiga se oggi fosse lunedì, tutti contenti di essere ancora vivi, però un po' giù perché dici, ho capito, vivo però devo, è lunedì, devo lavorare, fa freddo, non trovo parcheggio per la macchina, insomma è il solito lunedì, invece è venerdì e quindi si rinasce con il mondo, con il venerdì. Sì, però scusa, fra 3 giorni è di nuovo lunedì, quindi non è che sarà venerdì per sempre. Vabbè, però con te non si può mai fare niente di allegro, cioè sei vabbè, sempre lì a rovinare tutto, ma io mi sono rotto, io me ne vado. Vabbè, ma come, io ho soltanto detto no, che... No, tu sì, adesso bravo, comunque io adesso me ne vado. Ma dove vai? Non lo so, mi vado a prendere un caffè, perché non posso? No, se proprio devi... Non ho forse il diritto di bermi un bel caffè? Ma per carità, vai pure, io non cioè, ti voglio... sembro uno che non beve il suo bel caffè? Adesso io mi bevo il mio bel caffè, vado lì da solo, mi bevo, vado al bar, mi siedo al bancone, chiedo un bel caffè, eh? Voglio vedere chi me lo nega il mio bel caffè. Ce l'hai la chiavetta? No, i contanti. Non li accettano qui i contanti, lo sai. Ma perché? Mi sa che il tuo bel caffè... È nato, così gentile, così educato. È nato, stanotte è nato il Salvatore. Stanotte è nato il Salvatore. Stanotte è nato il Redentor. E ora, bambini, ricreazione! Tu Natale sai cos'è? Sì, come no? È quella roba dei regali, no? Soprattutto perché uno pensa... La famiglia più che i regali, al baby! Ho capito, famiglia uguale regali, che te le fai i regali, capito? Quindi non è detto che mi fanno i regali, però siamo tutti. Vabbè, questo è il tuo problema che io capisco, ma... Il cuore, quello che serve, il bel cuore, te l'ho già detto! Di cosa sto parlando? Qui servono i giochi, mi serve un joystick nuovo, non il cuore. Allora, tu hai scritto la letterina di Natale. Io ho scritto papiro. Scusa, fai a voce, glielo dici. No, io non scrivo, glielo ho detto proprio. Ma a chi? A Babbo Natale? Ma ha detto mia mamma. Tu quando stai in cameretta fai un pensiero e dillo ad alta voce e lui ti sente. E così lui ti sente, magari sta facendo gli affari suoi, sta facendo un nuovo la cocca, sta a sentire. Mi piace un coltello malese, una... Infatti ogni volta che lo faccio non viene mai niente. E per forza, non ti sei mai chiesto perché, perché il perché è una parola grossa, dici, è come vedere l'infinito, tu andare oltre ti spaventi. Vuoi dire che cosa stava facendo l'uovo? Ma l'uovo per dire, no, magari sta facendo quello che vuole, non c'è! Dov'è il Babbo Natale? Non c'è, è uscito un attimo. E tu magari stavi dicendo, voglio quell'acciarino, l'acciarino, no, capisci? Ma che cosa, Alberti? Che stai dicendo? Ma non capisci, allora? Io ho chiesto un pallone che... Cioè... Ma tu puoi aver chiesto anche un pallone aerostatico, ma se lui non ti ha sentito, non arriva, devi scrivere la letterina, no? Ho capito, ma come la... Io non ce l'ho... Cioè... Ma non sai scrivere, sei analfabeta? No, sì, no, so scrivere, però non... Cioè, non... no, scusa, sei analfabeta. Non l'ho mai fatto, no. Non lo so fare. E ha capito, allora devo fartelo. A chi l'ha in testa? Chi gliela ha dato? Ma che in testa? Non è mica una fattura. Ogni volta che arriva una lettera a casa è un problema. Vabbè, le lettere per noi sono un po' come una cosa, un allarme. Ah sì, roba scritta è pericolosa, pericolosa. Ma devi spedirla, non è che deve arrivare. Mica te l'autospedisci, no? A chi la spedisci? A Babbo Natale, ma a chi? Alla Befana? A Babbo Natale, che scrivo? A Babbo Natale, non so dove, non so come. Ma non lo sanno in posta, ma tu, ma dove sei vissuto? Cioè, ti hanno messo in un tubo di... Di ghisa, dove sei stato fino adesso? Babbo Natale, si scrive la letterina a Babbo Natale, la imbuchi, poi il postino lo sa, no? Cioè, non è che devi dire c'è l'indirizzo, è che Babbo Natale ha un indirizzo, il citofono. Cioè, il postino lo sa veramente? Ma lo sanno tutti, i bambini no, ma chi lo deve sapere lo sa. Ah, e allora domani ci provo a chiedere. No, domani devi tu cominci a scrivere, devi scrivere subito e mandare in fretta, se no. No, se mi vedono i cameretti che sto scrivendo qualcosa, quella mia mamma viene e strappa tutto, no, perché non vuole sapere di scrittura, non vuole che scrivi. Non vuole, cioè, questo è per preservarti. Lo facciamo assieme. Che cosa facciamo? La letterina. Io non la posso fare. Ma io posso anche aiutarti a scrivere, tu cosa vorresti? Io già scritto, non ti dico. Io gliel'ho già detto, voglio un pallone. Un pallone come? Un pallone da calcio, firmato da tutta la squadra del Napoli. E poi voglio che loro vengano a casa mia a Natale a passare il Natale con me. Tutta la squadra del Napoli. Cavani, deve venire Amsic. Ma che Amsic? Ma poi come fanno a venire lì? Anche loro hanno dei figli, hanno anche loro il Natale. Ma loro il Natale mattina dicono ai bambini: papà non c'è, è andato via per una cosa importante. Devo andare da Ioris a firmare il pallone davanti a lui, mentre lui è ancora nel letto. Ioris, ma... No, io voglio che vengano e poi voglio pure che... Vabbè, senti un allora, po'. Posso fare io un regalo a loro. Se loro vengono a casa mia, io gli canto la canzone del Napoli. Vabbè, questo sarà... Questo li conquisti. Napoli, Napoli, Napoli, forza Napoli, Napoli, Napoli, wow, wow, Napoli, Napoli, Napoli. Allora, lasciamo da parte questa roba qua, intanto qua siamo a Milano, qui ci sono due squadre in teoria, ma poi alla fine ce n'è una, c'è il Milan, no? Quindi qui il Napoli, la squadra del Napoli, Cavani, sì, tutti questi nomi astrusi, qui c'è il Milan, qui c'è il Faraone, capisci? Sì, ma io non posso neanche andare a vederlo. Ma chi? Il Milan. Ma tu non devi, tu sei napoletano. Tu sei del Napoli, cosa vuoi vedere? Il Faraone! E perché Milan-Napoli non ci sta a Milano? Non ci sono biglietti, non ci sono più biglietti. Vuoi un biglietto? Tu me lo puoi prestare qua? Io non lo che prestare, ti presto un biglietto, me lo ridai. Te lo bucano, vale una volta sola, non è mica come un paio di scarpe, no? Allora dammi qualche soldo come lo compro io. Ma qualche soldo? Ma cosa vuoi prendere a vedere Milan-Napoli? E poi magari prendiamo due pappine e ti ho pure pagato il biglietto e poi hai goduto. E poi ci salutiamo col faretto, io sto nel Napoli e tu nel Milan e vediamo. Ma cosa ci salutiamo? Intanto mentre ci salutiamo fanno gol e noi ce lo perdiamo. Ma cosa stai dicendo? Io voglio andare, io poi non vado più allo stadio. Oh, ci andavo una volta. No, sotto lo stadio. È Natale! Sì, sì. Ah, musica, sì, allora. Occhio, trovo il sistema. Allora, facciamo così. Ecco, gol, capito, qui. Cavani, Napoli, Natale. Però alla fine il problema tuo sai cos'è? Che i regali. E tu non ce n'hai. Te non ti arrivano i regali, capisci? Perché se fai... Tu scrivi... È mezz'ora che stai dicendo, cioè, Babbo Natale si è già rotto i maroni dopo che lei ha capito. Il Napoli, il giocatore Amsic, Cavani, ma che ne sa lui? Tu devi chiedergli una motoretta, no? Ma non una cosa, portami qui, andiamo di là, firma e arrivi. Un pallone. Io voglio un pallone. Un pallone di cuoio da calcio, ma non firmato però. Del Napoli lo voglio, con tutti gli autografi di ancora? Calcio. Ancora? Ma tu mi stai ripetendo la roba di prima. Ma scusa, ma Babbo Natale mica è uno qualsiasi, oh. Questo va da una parte all'altra, non può farmi fare 10 autografi a me, 11, 12. Ma che stiamo scherzando? 18, 11, 12, giochi all'otto. Senti un po', allora, vabbè, facciamo così. Io mi iscrivo e mando, tanto l'ambasciato Ober non portasse pena. Chiedo asilo! Cos'è? Venerdì, devi solo ringraziare. Dobbiamo ringraziare, salutare di nuovo tutti. Abbiamo fatto ieri. Comunque, vabbè, facciamo gli auguri di Natale. Va, dai, adesso... che oggi, quando si ritorna, poi è la vigilia. Quindi non c'è tempo di fare tutta la preparazione. Siamo Carmelo Lauricella, Laura Faggin, eccetera, eccetera. Alberto Caserini, Guido Bertolotti. Ma Guido Bertolotti non si è visto sta settimana? Come no? Sì, ma da qualche parte l'ho visto. Vabbè, comunque, buon Natale, Salvatore Iorio. I regali che troverete sotto K e Drago li ha portati Babbo Natale. Non è vero, Babbo Natale non esiste.